sumuri. Attesa, paura, freddo e neve. Immaginarmi dietro frammenti di futuro. E guardare verso mesa spenta. E Alfa né Omega, né zero né uno.